Maria Teresa. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Parlo con Nicoletta o con Debora? Buongiorno Nicoletta, ma è proprio lei al telefono? Sì. Visto quello che succede da voi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Piacere di sentirla. Anche per me, grazie. Cioè, a me non mi saluta, Cristiano? Non mi ricordo il suo nome. Bello. Dottor Gargiulo, ma è davvero lei a dirlo? Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. Denari di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano. Notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Allora, io l'ho fatto nel 1988 e cioè già tremo al pensiero. No, non facciamo i conti, no. Che è meglio, guarda, facciamo stare. Allora, parliamo di quest'anno che è meglio. Anche per il 2015 ci siamo arrivati, come ogni anno, alla notte prima degli esami, che sarà stasera, la notte. E quindi mandiamo subito un saluto in apertura di questa puntata a tutti gli studenti all'ascolto che attendono la prima prova di domani. Ma il saluto lo mandiamo anche alle loro famiglie che si preparano a sostenerli e li hanno già tanto sostenuti nei mesi e negli anni passati. Un sostegno, cara Nicoletta, che come sempre tu lo sai bene parte dal cuore, ma poi passa anche per i denari. Oggi nella prima parte della trasmissione chiediamo a studenti e famiglie quanto sta costando a livello finanziario in termini di portafoglio la maturità 2015 fra corsi e ripetizioni, materiale, ma anche i soliti contributi richiesti dalle scuole. Anche questi ci sono fra le voci di spesa. 800 24 00 24, allora facciamo una quantificazione. La spesa degli esami quanto pesa nel bilancio delle famiglie? Raccontate, ci sarà anche il nostro modo per raccontare come è cambiato il modo di prepararsi, quali sono le scelte di studenti e famiglie, le nuove esigenze, i nuovi strumenti per arrivare al meglio a questa prova così importante. E la maturità non ha solo dei costi economici, ma anche dei costi emotivi, o per meglio dire psicologici. A chi non è capitato, ad esempio, di ritrovarsi in sogno davanti alla commissione d'esame senza riuscire a spiaccicare una parola, o di essere intenta a scervellarsi sulla versione di latino con la penna sospesa senza riuscire a tradurre una riga. Capita, se è capitato anche a voi, raccontateci come avete vissuto, come rivivete, perché più volte capita spesso di ritrovarsi a rivivere lo stesso sogno, come avete vissuto la maturità. All'800 24 00 24 di sogni parleremo, non solo di maturità naturalmente, e chiamateci anche se non riuscite mai a ricordare i vostri sogni, perché tutti sogniamo, ma c'è chi il sogno proprio non se lo ricorda. 800 24 00 24 per sognatori, maturandi e non. Molinari, la vedo un po' in difficoltà. È l'emozione, Presidente. Posso fare una domanda io? Certo. Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione, vale a dire Giosuè Carducci. Sì, Giosuè Carducci nasce a Val di Castello nel 1835 in provincia di Lucca e muore a Bologna nel 1907 all'età di 72 anni, un anno dopo aver vinto meritatamente il premio Nobel. Come lei ben sa, fu poeta e critico letterario. Dopo una giovinezza repubblicana si avvicina alla monarchia e diventa il vate ufficiale della nazione. L'attività critica concilia inquadramento storico. Se c'era una cosa che avevo imparato in 5 anni di liceo era che non bisogna mai fidarsi di un professore, e così avevo ripassato tutti i poeti italiani, tutti tranne Leopardi. Due ricordi legati a questo film: uno, la grande interpretazione di Giorgio Faletti, che ricordiamo. Esatto. Due, io avevo portato Gabriele D'Annunzio, non chiedermi perché, ma stamattina, altro che sogni, è la mattinata, è la trasmissione dei ricordi delle nostre maturità. E la terza considerazione è: c'è da fidarsi di un professore o non c'è da fidarsi mai? Allora, magari lo chiediamo anche al nostro ospite, lo saluto intanto, Daniele Grassucci, responsabile della comunicazione di scuola.net, scuola con la K, ricordiamolo rigorosamente. Daniele, ben ritrovato, buongiorno. Ben ritrovati a voi, soprattutto ben ritrovati ai, ben ritrovati ai maturandi, alle famiglie dei maturandi soprattutto. Chissà oggi se c'è una giornata di passione. Eh sì, è vero, sono tutti lì che... Chissà se c'è qualcuno, dai, che sta ripassando. Io ho già dato, ma mio nipote adesso tocca a mia sorella. Anche un mio figlioccio, il figlio di una delle mie più care amiche, pronto lì. Con la maturità, insomma, c'è qualcuno che sta studiando in queste ore, ripassando Leopardi, Carducci, magari tenendo in sottofondo la radio. Allora, se state cimentandovi anche in questo esercizio, 800 24 00 24, prendete la cornetta e prendetevi magari due minuti di pausa per raccontarci come sta andando la preparazione per la maturità e se per caso vi è costata qualche soldino. Questo è un monitoraggio che scuola.net ha fatto, ha proprio condotto questo portale una ricerca chiedendo a 1000 ragazzi, giusto Daniele, che affronteranno la maturità, quali sono stati gli aspetti economici che la contraddistinguono quest'anno. Vuoi anticiparci già qualcosa? Beh sì, assolutamente, la maturità rappresenta un costo per le famiglie, se non altro perché lo Stato ci richiede una tassa d'esame che è obbligatoria, che è intorno ai 12,09 euro per sostenere l'esame e poi 15 euro per ritirare il diploma, e questo è obbligatorio, non si scappa. Però poi c'è l'annoso problema dei contributi scolastici volontari, ma che volontari non sono, perché gli studenti hanno dovuto dare un contributo alla scuola, circa 2 su 3, e anche qua stiamo parlando di una certa spesuccia. E poi comunque abbiamo tutto ciò che serve per preparare l'esame, dai corsi alle ripetizioni, passando per i bigini o le app. Ecco, tutto questo fa salire per alcuni la lista della spesa e diventa anche una cifra a tre zeri. Infatti, allora intanto... Anzi, a tre zeri, scusate. Ho esagerato con gli zeri. Speriamo di non arrivarci mai neanche a questo traguardo. Vedo già degli ascoltatori che si stanno mettendo in coda per chiamarci all'800 24 0024 e vedo già che il tema più gettonato è il ricordo della maturità, ma magari veniamo anche un pochino ai giorni nostri per raccontarci come i vostri figli e i vostri nipoti si stanno preparando ad affrontare questa prova e soprattutto a voi quanto è costata, oltre al regalone che farete quando naturalmente porteranno a casa l'obiettivo, a prescindere dal risultato, insomma dal voto che riusciranno a spuntare. Allora, appunto, la domanda che vogliamo farvi è: quanto avete speso per corsi e ripetizioni, per materiale didattico, libri, manuali, dizionari? La vostra scuola vi ha chiesto un contributo, come ricordava poco fa Daniele Grassucci. Oltre al numero verde scriveteci anche al 349-238-6666 oppure andate a curiosare sui nostri social attraverso la pagina di Radio 24. Daniele, quantificando le cifre, il vostro studio indica che in alcuni casi per arrivare a questa maturità 2015 qualcuno ha speso anche fino a 750 euro. Com'è stato possibile? Beh, innanzitutto chiaramente per noi questo è il titolo giornalistico, perché ecco, chi è arrivato a spendere quelle cifre sono solo, oltre quei 750 euro, sono solo il 6% del totale, ovvero 1 su 15, però immaginiamo una classe da 30 persone, vuol dire due ragazzi che hanno speso quella cifra, però 3 su 4, quindi comunque una buona fetta, comunque hanno speso fino a 100 euro, perché come dicevamo bisogna spendere 25 euro per la tassa d'esame, poi magari ti arriva il contributo scolastico tra i 30 e i 60 euro, e quindi ecco, è facile arrivare già solo per anche i soli bravi, quelli che non hanno bisogno di comprare nulla, già è facile arrivare a 100 euro. Più mettiamoci comunque l'ansia da maturità, quindi la ricerca comunque di strumenti per la preparazione specifica, oppure magari l'acquisto del dizionario, ecco, perché non molti sanno che per la terza prova si può utilizzare il dizionario monolingue di lingua straniera, mentre magari i ragazzi in genere usano quello bilingue. Mi è capitato di comprare per quell'unica volta proprio il dizionario monolingue, quindi ecco, è facile poi arrivare a spendere appunto una cifra a due zeri. Poi chiaramente chi arriva a spendere quelle cifre così importanti lo fa soprattutto perché va a ripetizioni. Infatti, allora, intanto cerchiamo di capire se si può stabilire, Daniele, una sorta di correlazione fra l'andamento dell'anno scolastico e la spesa che si deve sostenere in questo frangente, magari che sia ridotto all'ultimo, chi magari è già inciampato su qualche materia anche negli ultimi mesi, all'ultimo cerca di recuperare il tutto per naturalmente affrontare poi l'esame un po' più serenamente. Insomma, c'è chi, per fare il classico ripassone dell'ultima ora, appunto deve sostenere forse una spesa più alta. Appunto, qual è questa relazione fra anno scolastico complessivo e la spesa che si sostiene per affrontare la maturità? Beh, hai detto bene, Deborah, dalla circa promossa dai, perché anche lei è un po', la mettiamo un po' a fare l'esame di maturità. Ma lei magari, comunque, per il suo background è una number cruncher, è una persona che riesce a leggere bene i numeri, per cui è già promossa. Ha trovato esattamente proprio quello che è il link. Mi sopravvalutate. No, assolutamente, hai detto proprio bene. Cioè, perché quello che noi abbiamo visto è che arriva a spendere quelle cifre per le ripetizioni sono soprattutto i ragazzi che hanno collezionato più debiti al primo quadrimestre. Allora ecco, proprio un cane che si morde la coda, nel senso, il debito scolastico si traduce in un debito per le famiglie, ma noi sappiamo bene che il debito scolastico spesso è originato dal fatto che non ci sono abbastanza fondi per organizzare i corsi di recupero, e quindi i ragazzi devono provvedere da soli. È purtroppo un cane che si morde la coda, ed è fa bene, ecco, il governo a investire sulla scuola, proprio perché da questi investimenti viene il futuro del paese, ma anche il futuro delle famiglie. Il tema a cui vogliamo dare più spazio però riguarda tutti gli studenti, diciamo, indipendentemente dai voti e dai risultati. In questo caso la variabile è l'istituto a cui si è iscritti. Allora, ritorniamo sul tema del contributo scolastico, che viene richiesto anche in occasione della maturità. È un tema di cui ci occupiamo frequentemente a Cuore Denari, e lo facciamo soprattutto nel momento in cui va fatta l'iscrizione. Però facciamo un passo indietro e ricordiamo che si tratta appunto di contributi facoltativi. In quel caso, Daniele, rifacciamo un po' il riepilogo di questo tema, in modo tale che tutti i genitori possano trovarsi nei prossimi mesi pronti, anche poi quando arriverà la prossima maturità, quella del 2016, sappiate che molte scuole la richiederanno anche in quel momento. Sì, ma sta per arrivare comunque una bella, diciamo, richiesta anche per tutte le famiglie di circa 600.000 ragazzi coinvolti negli esami di terza media, perché noi sappiamo bene che non si può essere iscritti alla scuola superiore se non si è superato l'esame di terza media, che per molti è una formalità. Una volta superato l'esame, quando tra due settimane le famiglie andranno a consegnare in segreteria il diploma, insomma l'attestato di superamento dell'esame, si ritroveranno in molti casi, come noi abbiamo riscontrato, una lettera nella quale la scuola chiederà il pagamento del contributo volontario, perché solo a quel punto l'iscrizione sarà perfezionata e quindi solo in quel momento la scuola potrà richiedere il contributo. Quindi vogliamo ricordare a tutte le famiglie che le uniche tasse, quindi tasse in quanto tali obbligatorie, dovute per la frequenza agli anni scolastici, sono le tasse erariali, che vanno pagate solamente una volta che i ragazzi hanno compiuto il 16° anno d'età, quindi hanno esaurito l'obbligo scolastico. Tutto ciò che la scuola richiede come contributo scolastico, dandogli varie denominazioni, che però lo riconosciamo perché si versa sul conto corrente della scuola, in realtà in gran parte è costituito da spese che sono volontarie, perché servono per l'ampliamento dell'offerta didattica. Formativa. Solamente che le scuole sono un po' in bolletta, ecco, lo sappiamo, per cui tendono a dire: ok, famiglie, datemi dei soldi per garantire i servizi necessari, il cosiddetto fondo di funzionamento, anche perché dobbiamo ricordare che attualmente il fondo di funzionamento è intorno ai 160 milioni di euro, quindi poco più di 40 euro a studente. I presidi che abbiamo intervistato ci dicono che dovrebbe essere almeno il doppio. Il DDL della buona scuola lo aumenterà, però non sappiamo se questo sarà sufficiente a fermare questa richiesta che ormai è endemica. Monitoreremo questo argomento nel corso dei prossimi mesi. Intanto un ascoltatore ci scrive che il contributo scolastico volontario al liceo scientifico sono 90 euro. Una bella cifretta. Infatti, altro che 40, vabbè, quella è sempre la media, come ci ricordava Daniele. Allora, nel frattempo ci hanno raggiunto due ascoltatori pronti a raccontarci invece il ricordo della loro maturità, che a quanto pare, per fortuna, non ha nulla a che fare con aspetti economici. Nicoletta, da chi partiamo? Partiamo da Giorgio, che ci chiama da Roma. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Buongiorno, io vi chiamo da Roma, ma sono un torinese trapiantato a Roma. Vede, infatti si sente ancora un po', si sente, eh? Si sente molto. Ma sono venuto a Roma quando ho finito il lavoro mio a Torino nel 2000, e sono venuto a Roma dove c'è un clima meraviglioso. Lo credo, Giorgio. Stupendo, stupendo. Mm. e io ho dato l'esame di maturità nel 48, anno scolastico 47-48, a 17 anni, perché sono nato nel 31 e a 5 anni ho frequentato la prima elementare. L'hanno mandata subito a scuola. E poi nel 40 è venuta fuori Bottai, che ha messo gli esami di ammissione alla scuola media. Quindi io ho saltato la quinta e non ho preso la licenza elementare, ho dato l'esame di ammissione alla scuola media e quindi ho guadagnato 2 anni. E difatti mi sono poi diplomato nel 48 al liceo scientifico a 17 anni. Un genietto. Ripetizioni non ne ha prese, non no, si usavano, ripetizioni, vero? No, perché... A proposito di Danè. Mm. Non si, mio padre si sarebbe limitato a darmi un paio di sberle se avevo degli esami a ottobre, che allora gli esami di riparazione erano a ottobre. È vero, c'era come dire un percorso molto più liscio, non era fatto di crediti o debiti scolastici, ma insomma si veniva rimandati. Quindi 2 anni prima, solo tutto con le sue forze. Ha avuto un premio, Giorgio? Gli ha fatto un regalo il suo papà? No, sì, mi ha detto bravo. Ecco, perché anche questo, a proposito di denari, di premi, regali, molti ascoltatori ci stanno scrivendo dicendo come un regalo, fanno solo il loro dovere. È vero. Anche il papà di Giorgio la pensava così. Esatto. Giorgio, altri tempi, sono cambiati. A un certo punto, però, dopo la maturità, mi ricordo che a 17 anni ho preso la maturità, quella sera a tavola, ecco, il regalo di mio padre è stato che vicino al piatto della cena c'era un mazzo di chiavi, cioè da questo momento sei libero di uscire dopo cena. Pensi. Che bella storia, Giorgio. È vero, però lei insomma lo ha considerato un super regalo, non super riconoscimento. Era diventato grande, perché la maturità è proprio quell'esame che segna il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Giorgio, grazie. Kamstaga bing, Giorgio. Kamstaga bing kokila. E complimenti alla trasmissione che ascolto tutti i dì. Grazie, Giorgio. Arvazzi. Grazie. Scusate, adesso mi alzo e me ne vado, non ho capito. Nulla. No, me ne sparo una in martigiano, devo dire che Giorgio sa il torinese vero, non tanto bene. E poi non l'ha cancellato neanche di una virgola andando a Roma. Giorgio mi ha fatto battere il cuore. Andiamo a Laura d'Alessandria invece, che questi famosi 750 euro li ha visti poi proprio lì belli materializzati, li ha dovuti tirar fuori. Laura, buongiorno. No, grazie a Dio non li ho mai tirati fuori. Mio figlio difatti è stato bocciato alla prima maturità, rifatto l'anno. L'ha fatto la seconda volta, ha preso 60, perché io comunque non li avevo, perché in quell'epoca io sono vedova con 4 figli, questo era l'ultimo dei miei figli, avevo delle difficoltà economiche enormi, il preside mi ha dato della labbra, mi ha detto che io rubavo i soldi alla scuola perché prendevo il contributo dalla banca di Carcere. All'epoca mio figlio andava a scuola a Carcere, quel preside lì appunto mi aveva dato della labbra, io non ho mai avuto quelle cose, in quel periodo prendevo da mangiare alla Caritas. Mio figlio adesso ha 30 anni, ho tentato di mandarlo all'università, ma è lui che ha avuto un incidente di percorso, nel senso ha avuto un infarto a 25 anni. Non ha potuto farla, Laura. Comunque il tema Guardate che certi presidi fanno veramente schifo. Sì, questo, è stata molto chiara, guardi, non poteva essere più cristallina, come si suol dire. Detto questo, Laura, invece in tanti fanno un ottimo lavoro sul territorio, spendono davvero senza sosta le loro energie per garantire il buon funzionamento delle scuole che gestiscono, e non si può essere soddisfatti di tutti, ognuno come può cerca di fare al meglio il proprio mestiere. Laura ci ha parlato di una storia di qualche anno fa, Daniele, però insomma tu ne senti tanti di questi presidi, anche loro devono effettivamente fare sempre il gioco delle 3 carte, no? Se fai una scelta e impieghi magari le risorse disponibili per la scuola per sostenere un certo servizio, devi sottrarre queste risorse da un'altra cosa, anche per loro le cose non sono facili. Daniele. Marco, come dici? Sì, Daniele Grassucci. Mi sentite? Sì. Sì,

State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Cuore e denari. Sa se stai dormendo, a cosa stai pensando? Passiamo circa un terzo della nostra vita dormendo, lo sappiamo, lo abbiamo ripetuto tante volte, il sonno è vita, oltre a proteggere il cervello consolida la memoria, migliora l'apprendimento, consente anche di fare un po' di pulizia delle scorie prodotte, serve anche naturalmente ai nostri ragazzi che forse perderanno qualche ora di sonno, ma non di sonno, ma di sogni parleremo nella seconda parte di Cuore Denari, partendo dalle storie di chi a distanza di tempo sogna ancora l'esame di maturità, un'occasione per parlare di questa sorta di vita parallela in cui ci avventuriamo ogni notte per circa un'ora e mezza. Questa è data la grande quantità di tempo che dedichiamo al sogno, viene da chiederci perché sogniamo o che cosa servono. Sicuramente i sogni hanno un loro significato all'interno della nostra vita emotiva e affettiva. Siete sognatori? Vi ricordate i vostri sogni o solamente in parte? 800 24 0024, sogniamo insieme a partire dalla seconda parte della trasmissione. In linea con noi un neurologo e una psicologa a cui potremo raccontare i nostri sogni. Partiamo per rompere un po' il ghiaccio velocemente. L'anno scorso è uscito Greco e Latino, sono stati fortunati i suoi colleghi, quest'anno purtroppo è uscito Usi e costumi della PlayStation. Allora, velocemente, per scaldarci, usi e costumi. Gli usi a casa. Bravo. Costumi in tuta. Tuta, possibilmente tuta. Sì. I compiti vanno collocati temporalmente prima o dopo l'uso della PlayStation? Si fanno dopo, prima si usa la PlayStation. Bravo. E poi se rimane tempo si studia. Bravo, bravo. In certe culture evolute i compiti non si fanno. Non si fanno. Benissimo. Sì. Molto poi bene. La mamma ti deve sgridare. Bravo, no, la sa, la sa. Sì. La sa. Non l'avevo mai sentita questa gag. Il sogno di molti ragazzi sarebbe quello di fare la maturità sull'uso della PlayStation, come in questo video di Fabio De Luigi che circola in rete. Purtroppo, ahimè, per voi non è così. Ancora qualche minuto dedicato al nostro approfondimento di oggi sui costi dell'esame di maturità. Non vi dico quante testimonianze dei genitori che stanno arrivando all'800 24 0024 sull'annoso problema del contributo scolastico che abbiamo appreso stamattina va versato anche in concomitanza con l'esame di maturità da sostenere. Stanno arrivando tante lamentele da parte degli ascoltatori. Poi, a prescindere dalla cifra che deve essere versata, ovviamente l'oggetto della contestazione adesso diventa l'atteggiamento del preside che lo richiede, no? Daniele Grassucci con noi stamattina, responsabile della comunicazione di scuola.net. E a proposito di PlayStation e di annessi e connessi, sentirei subito Daniela dalla provincia di Udine. Ci sta proprio con piacere, come cacio sui maccheroni, direi. Daniela, benvenuta. Buongiorno. Eccoci. Allora, in breve, ho tantissime cose da dire, ma cerco di essere breve. Grazie. Ecco, per mio figlio io ho speso volentieri i soldi che ho speso, però questi signori genitori dicono che la scuola è un costo, l'esame è un costo, il contributo scolastico è un costo, il dizionario è un costo, ma il cellulare non costa. Lo smartphone non costa, i motorini non costano, i vestiti firmati non costano, la PlayStation non costano. Mio figlio non ha mai avuto tutte queste cose qui, però è finito alla Technische Universität di Monaco, è laureato con ottimi voti, non ha mai sofferto perché non ha avuto il telefonino e neanche il motorino. E allora, possibile che noi dobbiamo essere la società dei diritti e non anche di qualche dovere? Daniela, una seria questione educativa, passatemi questo termine. Abbiamo fatto, Daniela, pensi un po' con Nicoletta, microfoni spenti, questo parallelo tra chi spende molto in tecnologia e poi magari viene invitato anche attraverso il nostro programma magari a mangiare meglio, a seguire uno stile di vita diverso, e poi che cosa fa Nicoletta? Dice io non posso spendere tutti questi soldi per mangiare bene, mangiare bene costa, non me lo posso permettere, c'è la crisi. E è questione di scelte, no? Di come scelte, si dice, esatto, di impostazione proprio di vita in maniera diversa. Grazie per la sua testimonianza, Daniele. Tra l'altro, da Daniela a Daniele Grassucci tornerei, ci sono tanti bei messaggi anche. Sì. C'è questo ascoltatore che ci ha scritto poco fa, l'ho fatto sia con la mail e poi ha scritto anche l'SMS. Voglio far presente che il solo contributo volontario versato per la prima classe dell'istituto alberghiero di mia figlia è stato di 145 euro, per non parlare poi del costo delle divise per sala, cucina e ricevimento e tutti i libri di testo. Ora anche Paolo appunto si lamenta evidentemente della spesa che ha dovuto complessiva sostenere. Detto questo, se scegli un certo tipo di scuola, le divise servono, magari, non so, certe cose forse la scuola potrebbe avere una maggiore disponibilità finanziaria per poterle offrire, non so come poter gestire queste situazioni. Daniele, vorrei però con te commentare invece il tema delle ripetizioni. No, perché chiaramente la richiesta di queste si intensifica nell'ultima parte dell'anno, quando dobbiamo recuperare qualche materia. Per queste quanto si può arrivare a spendere? Dipende chiaramente molto dal costo medio delle ripetizioni, che è legato alle città, cioè quindi ci sono città, ad esempio soprattutto al nord, in cui si fa 25, anche 30, 40 euro per ogni ora di ripetizione. Ci sono città magari più al sud, magari con gli studenti universitari, in cui si può arrivare a 10, 15, 20 euro. Stavo proprio tra l'altro pensando prima a chi sono poi le figure che aiutano nel ripasso generale, in genere appunto studenti universitari, no? Magari qualche anche professore che lo fa, tipo, non lo so, sto parlando sì, in libertà. Ci sono in realtà degli specialisti, io ho conoscenza personale di studenti universitari che hanno fatto di questo un business, cioè preparano i ragazzi durante l'esame, per l'esame di maturità, soprattutto ad esempio per la seconda prova dello scientifico, che è una di quelle più difficili, per cui hanno gruppi magari di 7, 8, 10, 15 ragazzi. E poi vabbè, questa chiaramente io non la potrei raccontare, però la racconto insomma proprio per dare, per far capire che cosa sì, perché c'è, diciamo che tante fatture, tante certificazioni di questi pagamenti poi non risultano. Stendiamo all'aspetto fiscale. Io invece sono andata subito lì. No, ecco, guarda, ti racconterò una chicca, ecco, perché appunto ne ho conoscenza. Ecco, poi questi diciamo, nel pacchetto di preparazione c'è anche incluso il fatto che questi ragazzi svolgano le tracce di matematica per conto di questi assistiti e poi in qualche modo cerchino di farle entrare dentro le scuole. Ecco, quindi questo per far capire poi che chi è disperato, quindi stiamo sempre parlando di quei ragazzi che hanno tanti debiti, alla fine ecco non solo cercano aiuto prima dell'esame, ma cercano di assicurarsi una consulenza anche in tempo reale, quindi questa chiaramente siamo proprio nell'illegalità più completa, però ecco accade anche questo. Accade anche che, visto che abbiamo parlato prima con la testimonianza della nostra amica Daniela del fatto che oggi i ragazzi magari si lamentano di dover o le famiglie di dover comprare un vocabolario nuovo, ma poi quando si tratta di attrezzarli con tutta la dotazione tecnologica possibile non si lamenta nessuno, proprio anche la tecnologia viene un po' incontro all'esame di maturità, no Daniele? Perché ci sono delle applicazioni che aiutano in questo momento, applicazioni che vengono scaricate anche a pagamento. Di che cosa si tratta? Aiutano veramente? Soprattutto magari dobbiamo scoraggiare o no le famiglie anche a così intensificare il traffico tecnologico in questo momento, perché magari erroneamente ritengono che possano aiutare i figli a fare un buon esame? Oggi c'è da dire che la tecnologia sta proprio cambiando il modo di fare l'esame. Ecco, noi abbiamo forse l'immagine, perché ogni anno ce lo ripropongono prima della maturità, del film di Brizzi, di questi ragazzi che fanno i gruppi studio, preparano i foglietti nascosti sotto le scarpe, che poi vanno sotto casa del professore a bussare. Ecco, oggi tutto questo non esiste, cioè la maggioranza dei ragazzi studia da solo, studia di fronte a un PC o con un tablet o con uno smartphone, e quando c'è bisogno di approfondire qualcosa non si va a cercare sui libri, ma si va a cercare invece su web. E appunto anche i telefonini sono utili, perché il 20% dei ragazzi ad esempio ha scaricato delle app specifiche per la maturità, e la maggior parte fortunatamente sono gratis e possono essere utili. Per esempio, ecco, voglio citare un'applicazione, se ci fosse stata ai miei tempi penso che avrei acceso un cero all'inventore. Poi neanche avesse fatto lui l'esame di maturità nel paleozoico, no? L'ha fatto l'altro ieri praticamente. Guarda, l'ho fatto nel 2002, però questa applicazione veramente, cioè, ha un qualcosa di magico. Ecco, tutti quelli che stanno facendo, che fanno l'esame dello scientifico lo potranno capire. Ecco, sì. Quando uno deve svolgere una traccia di matematica, non è importante solo dire la soluzione è 2,7, 8, 7, ma il percorso a cui si è arrivati, certo. Questa applicazione che si chiama Photomat praticamente ti permette di fare una foto dell'espressione da risolvere e automaticamente svolge il calcolo simbolico, cioè ti fa vedere i passaggi. Cioè, questo è un qualcosa di eccezionale. Vabbè, arriveremo anche all'avatar che va a fare l'esame di maturità per conto dei nostri figli e nipoti. Daniele, intanto grazie per tutto quello che ci hai raccontato. Io invito sempre i nostri ascoltatori, famiglie e ragazzi a dare un'occhiata sul sito di scuola.net. Ci sono sempre tante notizie interessanti che ci raccontano in maniera costruttiva come poterci approcciare con il mondo della scuola, che non è ovviamente solamente problematico, ma è il periodo più bello della nostra vita, perché tutti noi vorremmo tornare indietro. Parliamoci chiaro, Nicoletta. Diciamo la verità. Diciamo le cose come vanno dette. Daniele, grazie. Rifarei anche la matura. Grazie molte. Guarda, sono 15 anni che la rifaccio. La matura non è consigliabile. Guarda, fa male. Fa male. La sogni, Daniele, qualche volta? Esatto. Ma io la sogno sempre. Ecco, ti posso dire, l'ho sognata una settimana fa. Ecco, l'incubo era che dovevo andare a rifare l'esame di maturità e che però dovevo organizzare tutto il lavoro qui a scuola.net e non sapevo. Devo decidere, dicevo cazzarola, alla fine ho deciso di non fare l'esame di maturità. Ecco, questa è stata la decisione. grazie Daniele. Buona giornata presto. Esatto, in bocca al lupo a tutti. Naturalmente, per un attimo scordiamoci dei problemi economici, concentriamoci sulle materie che dobbiamo studiare e andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Voilà. State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero. Il mio segreto a 40 anni? Bevo Liveto, acqua della salute. Cuore e denari. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese. E nei giorni che ci aspettano, 100.000 candele accese. Allora, secondo un sondaggio dei nostri amici di scuola con la K.net, che abbiamo ospitato nella prima parte della trasmissione, 6 studenti su 10 impegnati quest'anno con la maturità ammettono di aver disturbi del sonno a causa della paura delle prove d'esame. Normale, no? Quando siamo agitati, preoccupati, siamo chiamati a un compito straordinario, il sonno diventa più fragile. Spesso questo succede quando avremo proprio invece bisogno di riposare. E in questo caso, ancora di più, e penso ai ragazzi, di rinforzare la memoria. Abbiamo dedicato tante puntate al sonno, ma oggi vogliamo parlare non di sonno, ma di sogni, che sono una parte integrante del sonno. Ne parliamo oggi insieme al dottor Lino Nobili, che è tornato a trovarci, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Se la sognava lei la matura, dottor Nobili? Per un po' di tempo, ma fortuna me la sono dimenticata ormai. E alla dottoressa Erika Bonetto, psicologa e psicoterapeuta a Torino. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Una cosa è certa, sia la dottoressa Bonetto che il dottor Nobili la matura l'hanno passata, perché sennò non sarebbero qua con noi, no? Questa è una condizione. Dottor Nobili, un pensiero ai ragazzi che soffrono di insonnia da esami perché sono agitati e il loro sonno naturalmente viene disturbato, e anche a chi le notti le passa in bianco per studiare sui libri. Sa che con i ragazzi, dottor Nobili, i consigli lasciano un po' il tempo che trovano, ma ci proviamo. Ma sì, ci siamo passati tutto e purtroppo capita la notte prima degli esami di aver la paura di non aver ripassato una cosa e di volerla studiare fino all'ultimo, anche fino a tardi, quindi non vorrei spaventare comunque troppi ragazzi. Può capitare, il nostro cervello è in grado di compensare una deprivazione di sonno. Quello che non devono fare i ragazzi è di farlo costantemente, l'esame di maturità dura tanto e quindi alla fine la deprivazione di sonno, come ha già detto e abbiamo detto più volte in trasmissione, altera un po' i processi anche di memorizzazione delle cose. Ma non solo, essere deprivati di sonno fa aumentare quella parte della nostra regolazione del comportamento che è meno razionale e quindi è più facile anche durante il giorno essere più ansiosi, agitati, fare degli errori, proprio per un cervello che funziona in maniera differente se è deprivata. Quindi cerchiamo al massimo di ridurre più che si può le ore serali di studio e dare spazio al nostro sonno. Senta, dottor Nobili, dato che molti faranno tardi sui libri, studiano fino alle 2, alle 3 del mattino, sono agitati, anche chi vuole andare a dormire magari ha questo sonno agitato, magari frammentato. Durante il giorno cosa diciamo ai ragazzi? Mettetevi lì, fatevi un pisolino magari dopo pranzo di una mezz'oretta e cercate di recuperare. Che cosa possiamo... questa è una buona idea se ce la fanno i ragazzi a farlo. Molto spesso i ragazzi non sono in grado. Quello che non devono fare è quello di esagerare, ad esempio con le sostanze stimolanti, cosa che fanno per riuscire ad arrivare sì da tardi, ma poi dopo, specialmente nei ragazzi, se si perde quella porta del sonno perché si è preso troppi caffè, non si riesce più a a prendere in sonno, entra la paura del non dormire, quindi comunque io consiglio di avere una riduzione dell'assunzione delle sostanze stimolanti durante la giornata, quantifichiamo, dare dello spazio anche dell'attività fisica, ad esempio se è possibile fare uno stacco dell'attività di studio con un po' di attività fisica nella prima parte del pomeriggio, questo potrebbe essere estremamente utile, anche solo un 20 minuti per staccare dallo studio. Il caffè io non prenderei, non oltre il caffè del dopo pranzo e al limite sicuramente non dopo le 5 del pomeriggio. Allora, ricevuto, messaggio ricevuto per le mamme, provate a dirlo ai vostri ragazzi e ai papà all'ascolto, intanto chiamateci 800 24 00 24. Dottoressa Bonetta, a proposito di maturità, lo abbiamo detto prima, il costo di questa prova non solo pesa sulle nostre tasche, sulle tasche dei genitori, ma anche ha un impatto emotivo sui ragazzi fino a disturbare i loro sogni, a volte trasformandoli in veri e propri incubi. E abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se a loro è capitato di rivivere l'esame, magari in modo completamente diverso da come l'avevano vissuto e magari brillantemente superato nella realtà, ad esempio di non trovare le parole, di non saper rispondere agli insegnanti, di essere cacciati dall'aula. Dottoressa Bonetto, se dovessimo fare un hit parade delle situazioni che entrano di più nei nostri sogni, la maturità sarebbe sicuramente ai primi posti, ma partiamo da qui, dato che siamo in odore di maturità, perché questo sogno ritorna? Cosa determina il ripetersi di un sogno? Ecco, come ha detto bene Nicoletta, il sogno della maturità è uno dei sogni ricorrenti classici proprio per l'importanza che il momento della maturità porta con sé e con il suo insieme di significati, l'adolescenza, la crescita, la conclusione di un cammino, la prestazione, il giudizio, la paura e tanto altro, no? Quindi il sogno ci mostra il nostro vissuto rispetto alla situazione in cui siamo nel nostro presente e scaturisce proprio dalle emozioni attive nel momento di vita attuale. Il ripetersi di questo sogno, così come di altri sogni ricorrenti, può segnalarci diverse cose e può proprio prendere spunto dall'intensità con la quale noi abbiamo vissuto l'esame. Quindi può segnalarci un momento di vita stressante, un cambiamento che dovremmo affrontare ma ci spaventa, una prova da superare, l'ansia di dover dimostrare qualcosa a qualcuno e quanto si vale a qualcuno, la paura di fallire o anche di sentirsi inadeguato. A quanti di noi sarà capitato di sognare di rifare l'esame di maturità, magari con l'età che abbiamo nell'oggi, no? Quindi di essere assolutamente nonostante maturi, nonostante nell'età matura, abbiamo sognato l'esame di maturità, magari terrorizzati davanti alla commissione d'esame, con la penna sospesa sul foglio. Certo. Sappiamo, e ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, che non si può generalizzare, che ognuno è lo sceneggiatore del proprio film, del proprio sogno. Chiudiamo con questa frase di Jung che ci sentiamo prima di andare a sentire il nostro GR e poi naturalmente torniamo insieme con le telefonate dei nostri ascoltatori. L'attore è allo stesso tempo la scena, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l'autore, il pubblico e il critico. Il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo la scena, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l'autore, il pubblico e il critico. Allora, se vi ritrovate in uno di questi personaggi, 800 24 00 24, chiamateci, ne parliamo nella seconda parte della trasmissione con il dottor Lino Nobili e con la dottoressa Erika Bonetti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Cuore e denari. Amore, scusa, ti vorrei notiziare sul mio tipo di sonno che nella sua prima fase, essendo molto rapido e anche, ahimè, molto leggero. Quindi ti pregherei proprio la massima cautela nei movimenti con i piedi e soprattutto con le lenzuola. Chi dorme non piglia pesce, è vero, ma sogna, e sognare può aiutarci magari a capire un periodo un po' particolare, un po' difficilino, un periodo che stiamo affrontando anche a interpretare la realtà che ci circonda, ma è vero che alcuni sogni al nostro risveglio li ricordiamo in modo molto nitido, alcuni invece li dimentichiamo in brevissimo tempo, altri ancora non ci verranno mai in mente. Oggi parliamo di sogni e lo facciamo con il dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano, e con la dottoressa Erika Bonetto, psicologa e psicoterapeuta a Torino. 800 24 0024 se siete sognatori, per raccontarci che sogni fate, se avete dei sogni ricorrenti, se fate i sogni lucidi, cioè se sognate sapendo di sognare, se sognate il vostro esame di maturità. E in linea con noi abbiamo subito Pierluigi da Milano che ci racconta il suo sogno. Buongiorno Pierluigi, benvenuto. Buongiorno, allora arrivo subito al mio sogno. Ho sognato durante il mio percorso universitario di ritornare tutti i giorni a scuola dopo aver svolto l'esame di maturità. E come andrà? Mi sono sempre chiesto, ma perché questo? Perché accade questo? Poi, finita l'università, si è interrotto questo sogno. Non ho più sognato questo. Ero forse, mi ritenevo impreparato. O forse aveva bisogno di conferme o era sotto pressione per gli esami. Non lo so, ma dopo l'esame di laurea basta, è finito. Puff! Ah. L'esame di maturità è svanito dai sogni di Pierluigi. Dottor Nobili, vorrei una sua interpretazione, poi andiamo alla dottoressa Bonetto. Ma questo è veramente, penso che possa aiutare molto di più la dottoressa Bonetto su questo tipo di interpretazione. Di sicuro quello che sappiamo è che i sogni si possono ripetere molto frequentemente, addirittura ci può essere un periodo in cui per un po' scompaiono, alcuni sogni che abbiamo fatto possono andarsene per un po', anche per settimane, e poi ritornare, proprio perché vengono trasferiti da una memoria tra virgolette più affettiva alla memoria più razionale del lobo frontale, quindi questo richiede del tempo. Può succedere appunto di recuperare dei sogni e di mantenerli anche per lungo tempo. Ora probabilmente finalmente la laurea ha cancellato la paura. Certo, e il sogno è traslocato. Ma esatto. Dottor Nobili, prima di passare alla dottoressa Bonetto, il nostro cervello ha bisogno dei sogni? Sognare gli fa bene? Guardi, penso sicuramente sì. Il neuroscienziato è un enigma ancora, il sonno è ancor più il sogno dal punto di vista neurofisiologico. Di sicuro fa bene al cervello, faccia conto che il neonato passa la sua vita in quella fase in cui poi da adulto si sogna principalmente, cioè il cosiddetto sonno REM. Quindi il sogno di per sé, la fase in cui si sogna, ha qualcosa a che fare con l'organizzazione di circuiti neuronali, e sognare quindi è fondamentale per il nostro cervello, probabilmente dal punto di vista della memoria e anche per il nostro stato del funzionamento della coscienza durante il giorno, quindi è un bisogno essenziale della nostra vita. Dottoressa Bonetto, naturalmente il nostro Pierluigi, la domanda è perché faccio questo sogno, perché ho fatto questo sogno? Noi l'abbiamo anticipato che una interpretazione corretta del sogno è imprescindibile dal riferimento alla storia personale del singolo sognatore. Nel libro del professor Bara, a cui lei ha collaborato, Dimmi come sogni, interpretazioni emotive dell'esperienza onirica, parlate di cifra personale proprio per indicare la storia personale di ogni sognatore che influisce sull'interpretazione del sogno. Ma ci aiuti, volendo capire di più di noi attraverso il sogno, forniamo a Pierluigi e agli ascoltatori che stanno chiamando il nostro numero verde, come possiamo procedere, no? Quali sono gli strumenti in nostro possesso e a quali dettagli dobbiamo fare attenzione per cercare di interpretare i nostri sogni? Certo, lo strumento di cui disponiamo per cercare di comprendere i nostri sogni è sicuramente il poterne tenere una traccia fresca, quindi se si vuole comprendere meglio il nostro sogno dobbiamo cercare di annotarlo appena ci svegliamo, no? Per poterci avvicinare il più possibile alle emozioni che sono presenti nel sonno e nel sogno e che lo hanno poi generato. Quindi appena ci svegliamo e iniziamo a ricordare, il sogno inizia a modificarsi perché lo incaselliamo in tutti quelli che sono gli schemi che abitualmente usiamo per interpretare il mondo. Quindi può essere utile riviverlo e narrarlo come un film, scrivendolo usando la prima persona singolare che ci riporta molto vicino all'esperienza onirica. Lo dobbiamo fare al rallentatore, quindi senza avere fretta a ricordarlo per bene e senza assolutamente utilizzare il giudizio. Non siamo assolutamente responsabili per ciò che noi sogniamo ed è utile anche annotare tutte le emozioni che abbiamo provato nel sogno senza darle una connotazione positiva, negativa o giusto o sbagliata. Alcune le avremo sperimentate di frequente, altre no. Lasciamoci anche un po' stupire da quello che può venire fuori dal sogno, no? anche perché a volte nel sogno facciamo cose che nella realtà non ci permetteremmo mai di fare. Possiamo anche chiederci quale titolo daremo a questo sogno e chiederci se questo sogno può dirci oggi qualcosa di noi. Non dobbiamo avere però la pretesa che il sogno veicoli sempre un messaggio significativo da svelare. Può essere sicuramente una via verso una migliore consapevolezza di noi stessi e quando non ci riusciamo da soli, perché è molto difficile, dobbiamo rivolgerci a qualcuno di esperto che ci aiuti proprio a trovare. Ma chi è l'esperto che ci aiuta a interpretare i nostri sogni e quindi a diventare, no, quello che Jung diceva, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena di quello che sogniamo? È uno psicoterapeuta? Sicuramente lo psicoterapeuta. Noi in seduta utilizziamo molto i sogni, che ci stanno proprio a indicare a volte come sta andando l'andamento sia della terapia che del cambiamento del paziente. Ci sono sogni diversi a seconda di fasi diverse della terapia e quindi è molto utile poi proprio per l'applicazione nella vita pratica, gli strumenti che ci dà il sogno, perché a volte il sogno rivela delle competenze che il soggetto non sa ancora di avere, ma che sono lì pronte ad essere utilizzate. E quindi con uno psicoterapeuta in una relazione di questo tipo è assolutamente proficuo andare ad analizzare il significato di un sogno, perché può proprio aprire a nuovi scenari di vita anche. Allora, intanto che chiediamo alla regia di richiamare la dottoressa Bonetto, sì, perché il collegamento non è ottimale. 800 24 0024 è il nostro numero verde. Superate la barriera rosa, raccontateci i vostri sogni, diteci se vi capita di avere un sogno ricorrente, se diventano addirittura incubi, se sognate sapendo di sognare oppure al mattino non è rimasto nulla, alcuna traccia. Antonella, buongiorno da Genova. Buongiorno Nicoletta, sono proprio io. E lei, vero? Sì. Che a me non rimane assolutamente nulla, cioè secondo me non sogno proprio, ecco. Non è possibile, Antonella, sentiamo gli non nobili, dottor Nobili. Salvatore, sì. È impossibile che Antonella non sogni, perché sogniamo tutti, vero? Assolutamente, tutti sogniamo. Cosa succede? È molto frequente non ricordarci i sogni, come diceva appunto la dottoressa, per ricordarsi bisogna cercare di annotarli subito, ma alcuni, anche se ci provano, possono non ricordarselo. Questo dipende da dei meccanismi neurofisiologici che ancora sono da definire in maniera completa, ma che sono un pochino più chiari. Dipende da cosa succede a livello del lobo frontale. Quanto più il lobo frontale produce una certa attività, tanto più siamo in grado poi di ricordarci il sogno che abbiamo fatto. Ma tutti sogniamo. Poi dipende anche da come uno dorme. Chi dorme magari male, quindi si sveglia più nella parte di sonno profondo e molto spesso non ricorda i sogni, ma non c'è dubbio, non c'è persona al mondo che non abbia attività onirica, cioè che non sogni. Ma dottor Nobili, chi non ricorda i sogni, quindi è probabile che abbia una qualità del sonno non ottimale? C'è una relazione tra questo tirata? Non è sempre detto, ci sono degli ottimi dormitori che non si ricordano i sogni, ma che potrebbero in realtà, volendo, anche imparare a ricordarselo, perché ci sono anche delle tecniche che permettono di aumentare la consapevolezza del sognare. Non è così semplice, ma è possibile anche. Un po' ce le dovete insegnare, ditecele allora, se no noi come facciamo a sognare? Ad esempio tutte le scuole che voi avete citato, i sogni lucidi, cosa succede nel sogno lucido? Succede che c'è una parte del cervello, quella che dicevamo prima, il lobo frontale, che è un pochino più sveglia del solito e riesce in qualche modo a essere consapevole di quello che sta succedendo e quindi a modificare un pochino l'andamento del sogno, che rimane per sempre comunque un andamento, come diceva la dottoressa Bonetti, anche particolare, anche irrazionale, proprio perché il lobo frontale, la nostra razionalità, non riesce a controllarlo. Però se noi riusciamo a essere leggermente un pochino più svegli quando stiamo sognando, abbiamo forse anche più capacità di ricordarceli, ma è una cosa che richiede impegno. Quindi non so se per la signora, io mi accontenterei di sapere che anche lei sogna, che qualche gli effetti dei suoi sogni sicuramente giocano un ruolo nella sua vita e se non se li ricorda, ma può vivere una vita tranquilla lo stesso. Sicuramente, però risvegliamo svegliarsi al mattino, ricordarsi anche un frammento di sogno e avere la possibilità di raccontarla a qualcuno è un piacere. A colazione, certo. Insomma, prende tutto un altro sapore. Se il sogno è piacevole. Se il sogno è piacevole. Dottoressa Bonetto. Sì, eccomi. Lei ci dà una mano per ricordare quello che non riusciamo a ricordare al mattino? Se il sogno viene totalmente cancellato, che lettura dà? Ma secondo la nostra esperienza, appunto, come vi dicevo prima, appena svegli il sogno inizia a subire delle trasformazioni, quindi anche il fatto di non ricordare proprio il sogno ci sta dando indicazioni molto, molto preziose, proprio perché chiediamoci perché non ci lascia emotivamente una traccia. Poi dobbiamo molto mi aiuti facendomi aiutandomi a fare delle domande. Cioè, non me lo ricordo perché sono molto teso, sono con la testa altrove, sono occupato in altre. Allora, prima di tutto dobbiamo capire se al mattino appena sveglio, perché tante volte ci ricordiamo di non aver sognato nel corso della giornata. Quindi la prima cosa per le persone che sono un po' preoccupate di non sognare è: ma al mattino appena sveglio, appena apro gli occhi, mi chiedo, ho sognato? Allora già lì possiamo trovare traccia, anche solo un breve frammento, una breve sensazione di avere sognato. Perché poi più passa il tempo e più il sogno viene cancellato. Se proprio non si ha invece consapevolezza di aver sognato, chiediamoci in che momento di vita stiamo passando, soprattutto se nell'arco della nostra vita siamo stati dei sognatori, no? Come diceva il dottor Nobili, è impossibile non sognare, quindi anche il non sognare ci sta dicendo qualcosa, sempre rapportato a quello che stiamo vivendo. Però un buon trucco è: appena ci svegliamo, teniamoci un taccuino vicini e annotiamoci subito un occhietto, appena apriamo l'occhio, almeno se non è proprio il taccuino, ripetiamola ad alta voce, così lo ripetiamo, fissiamo. Ripetiamo ad alta voce, fissiamo le memorie. Perché il taccuino, dottoressa Bonetto, io la vedo già nel mio comodino, già la vedo male, perché tra l'acqua, il libro, la lucina, qualche, insomma, già il taccuino non ci magari sta. Magari anche Emma un attimo la mattina, un pochino a richiamare l'attenzione. Sai cosa faccio? Domani mattina ti chiamo, appena mi sveglio. Scrivere il sogno tuo, ma pensa, guarda. Allora andiamo a leggere, leggi tu, che sì, Jessica su Facebook ci scrive di un Jessica sogno strano. Dice: non è un sogno ricorrente ma un contesto che ha dell'incredibile. Quindi una donna che sogna di essere un guerriero medievale con una corazza e armi obsolete che nemmeno credo di aver mai visto nella vita reale, e combatte sanguinosamente dei nemici. Aiuto, cosa mi vorrà dire il mio cervello, perché mi trasporta nel passato? Dottoressa, sogni bizzarri questi, contesti bizzarri, in cui noi siamo proprio un'altra persona. Sì, sì, potrebbe anche voler essere indicarci la libertà di poter essere un'altra persona in un altro tempo, un guerriero, quindi magari un combattente. Magari nella vita non siamo così combattenti, nel sogno addirittura recuperiamo armi che non sappiamo di avere. Questo, come dicevamo, dipende molto dalla persona, però è un possibile che si apre, no? Ed è curioso, ma anche paragonarlo a chi siamo noi nella vita attuale. Però un combattente è una bella immagine. Una bella immagine. Dottor Nobili, ci sono, allora abbiamo visto, no? Sogni di tutti i tipi, ci sono anche quegli incubi, i sogni lucidi a cui facevamo riferimento prima, sogni che ci fanno paura, sogni dai quali ci svegliamo e non vediamo l'ora di riprendere sonno per rituffarcici dentro. Ma la domanda è semplice: ma da dove arriva l'oggetto dei nostri sogni? Da che cosa prende spunto il sogno e di che cosa si alimenta? Dalle nostre esperienze quotidiane, per cui magari fotografiamo e non ne abbiamo la percezione, alcune scene, alcune situazioni, un vissuto, e lo mettiamo lì nel cassetto dei sogni che poi si aprono e li riviviamo, dalle nostre emozioni, da quello che vorremmo essere, sono desideri. Dottore, guardi, c'è una mescolanza di questi due fattori. C'è un aspetto neurofisiologico primario, cioè che quello, indipendentemente da ciò che abbiamo fatto, quando noi entriamo nella fase del sogno, vero e proprio, la cosiddetta fase di sonno REM, il nostro cervello è attivato come se fossimo svegli, e ci sono le regioni visive, le regioni sensoriali che, tra virgolette, sparano attività, quindi determinano degli impulsi, determinano delle sensazioni. Queste sensazioni poi vengono da quella coscienza che non è così razionale ma c'è nella fase del sogno, vengono raccolte, messe insieme e vengono create, viene creata la storia, e questa storia poi, nella storia vengono inglobate anche le cose fatte di recente. Non so, ci sono molti studi che dicono, ad esempio, se lei è un musicista, studia, ha molti sogni con musica dentro rispetto a chi non è un musicista, quindi la nostra vita è assolutamente influenza anche il nostro contenuto dei sogni, quindi è una mescolanza tra attività sensoriale, che ha proprio una spiegazione estremamente neurofisiologica pura, e inglobamento in questa situazione anche dell'aspetto effettivo, affettivo e della memoria della nostra esperienza che abbiamo avuto durante la giornata. Dottor Nobili, si sogna a colori o in bianco e nero? E questo di nuovo dipende, ci sono degli studi che nei soggetti magari non vedenti si può avere di diverso tipo di sogni per rispetto ai colori, quindi questo ci dice che c'è un legame rispetto alla nostra vita anche dal punto di vista sensoriale, ecco. Allora, andiamo ai nostri ascoltatori, le ultime batteria di domande. Allora, 800 24 00 24, il nostro numero verde, ma ormai non c'è più tempo per superare la barriera rosa. Se volete candidarvi, naturalmente provate ugualmente. Allora, dove andiamo? Giuseppe da Verona, perché ci riporta anche al tema dal quale siamo partiti, no? La maturità, l'esame di maturità. Giuseppe, pronto? Benvenuto. Sì. Sì, ci sono. Pronto? Sì. Eccomi qua. Giuseppe, allora, non siamo un sogno, lei è realmente a Radio 24, a Cuore Denari. Ta-ta! Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti. Il mio sogno ricorrente è questo. Io ho ancora da riuscire a diplomarmi e si accorgono, non so chi, perché nel sogno questa entità non è definita, si accorgono che però sono già laureato e in qualche modo ho dei problemi. Eh sì, perché le annullano anche la laurea. Bravissima. Mamma mia, che angoscia! sì, proprio. E questo sogno è da tanto che ce l'ho, non in modo continuativo, però ogni tanto salta fuori. Ma lei non ha notato che magari sogni in coincidenza di una particolare situazione? Non so, quando è arrabbiato, no, quando ha bisogno di una conferma e ritorna a questa sorta di bollino? No, non ho trovato alcuna relazione con il mio vissuto giornaliero. Ed è sempre uguale? Direi di sì, più o meno si mantiene sugli stessi binari, con le stesse preoccupazioni, gli stessi fastidi e lo stesso risultato finale, cioè magari svegliarmi con una sensazione di, non dico di fastidio, ma un po' di malessere, ecco, questo sì. Senta, Giuseppe, da quanto tempo è che non lo fa questo sogno? Ma io lo faccio ancora. Sì, ma no, l'ultima volta che l'ha fatto? L'ultima volta che l'ho fatto potrebbe essere qualcosa come un mese fa, ecco. Quindi abbastanza recente. Dottoressa Bonetto, noi rimandiamo il caso di Giuseppe sulle nostre pagine Facebook. Io so che lei non sarà in grado di dare un'interpretazione, ma aiuterà Giuseppe, certo, e chi si misura. Noi possiamo aiutare gli ascoltatori con un'altra informazione di servizio, che qualche volta è un po' più un incubo. Da oggi, martedì 16 giugno, disponibile online sul sito del Sole 24 Ore il quotidiano del condominio per tutti quelli che hanno bisogno di informazioni su questo argomento, professionisti dell'immobiliare ma anche semplici condomini. Tutto qua, grazie. E noi torniamo come un sogno domani alle 11 con Cuore Denari Expo, non mancate. Grazie ai nostri Lino Nobili e Erika Bonetto, a domani.